Radio Popolare presenta La Caccia, caccia all'ideologico quotidiano, a cura di Felice Accame e Carla Oliva. Buongiorno. Il programma prevede di parlare di casi insoluti, dei rapporti fra concupiscenza, matematica e filosofia, di chiese e nonché di una buona azione di cui non mi sono affatto pentito.